versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, sono le 16.34, primi 36 secondi, siamo in diretta qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Immagino che forse alcuni di voi si hanno sentito i giornali radio, hanno visto la televisione da questa mattina, siano un po' impazienti di sentire una trasmissione qui sul Fatto del Giorno. Il Fatto del Giorno sono i 35 arresti disposti a Venezia intorno alla faccenda del Mose, una grande altra opera pubblica con molti soldi pubblici e accuse per cui la procura ha disposto questi arresti, di far provvista da parte di partiti in maniera bipartisan, travolto il sindaco di Venezia del PD Orsoni. Tra l'altro bisogna augurarsi che ovviamente i magistrati abbiano prove incontrovertibili, però detto tutto questo, un altro enorme scandalo intorno a torte di risorse elevate per le poche opere prioritarie pubbliche che agiscono con dei meccanismi in deroga, come un po' è avvenuto con l'Expo. Allora, io la puntata su questo, siccome anche su Radio 24 ne sentite parlare già da stamattina e lo sentirete fino a questa sera, la faccio domani, perché preferisco capire meglio e proporgli un'idea radicale con l'ospite di domani, un'idea radicale, perché secondo me dopo decenni che assistiamo al fatto che più si fanno le opere con pochi soldi ma si concentrano su poche, si fanno in deroga perché il ritardo della pubblica amministrazione, la sua foresta normativa, non consente di fare opere trasparenti in tempi rapidi, si decidono le deroghe, a quel punto crescono i soldi gestiti dalla PA, da manager pubblici e da individuati dai partiti, a quel punto fanno provvista con privati collusi. Da quanti anni è che vediamo questa roba? Secondo me il problema sta nel fatto che bisogna decidere che le opere si possono fare, bisogna farle, io penso di sì, molti di voi no, si possono fare in maniera diversa con tempi certi e trasparenza e senza tangenti ai partiti, e con la mia opinione sì, ma domani vi spiego come con un ospite, perché mi rendo conto che oggi è meglio, per così dire, interrogarsi sulla gravità di vicende persistenti di questo tipo. Oltretutto sindaco PD Venezia, anche qui le cooperative, la destra naturalmente, la richiesta di arresto per il ministro Galan, non è che me lo dimentico, qua siamo in presenza di un sistema alla greppia paratodos, se sono vere le accuse. Vediamo domani, ma oggi parliamo di un'altra cosa, e quindi le telefonate, anche se potete farmene anche su questo, però sono su una cosa di cui mi interrogo da lunedì. Lunedì è arrivata la pagella dall'Europa, è una pagella, per chi l'ha letta, io mi auguro molti di voi, andatela a leggere sul sito della Commissione, gli 8 punti della pagella italiana sono belli, corposi, ed è una pagella nella quale l'Italia aveva chiesto il rinvio del deficit strutturale di un anno ad aprile, e gli ha presentato il piano delle riforme ad aprile, e la Commissione Europea dice: guardate, noi ai vostri conti così com'è non ci tornano, perché non ci tornano per più di mezzo punto di PIL, cioè 9 miliardi, lo 0,6 di PIL che loro chiedono di manovra correttiva, se volete non ve la chiediamo adesso. E così Renzi ha cantato vittoria e tutti i giornali dietro Renzi, però i conti non ci tornano, cari ragazzi, quindi nella legge di stabilità fate il favore, aggiungeteli. Allora, questa cosa, celebrata da tutti come il rigore è finito, il governo ha vinto, basta diktat, a me interroga, perché se i numeri hanno un senso, noi dobbiamo stare ai numeri, e allora per questo governo la legge di stabilità diventa sempre più complicata, non ha margini nemmeno se fa tutti i prossimi tagli di Cottarelli, i 15 miliardi previsti l'anno prossimo per fare ulteriori sgravi, in più ne deve fare altri 9 miliardi. Allora, stamattina anche la Corte dei Conti ha detto che non gli tornano i conti, per il 2015 e 2016 sommando la Corte dei Conti nei due anni manca 0,3 e 0,6 di PIL, quindi 0,9 punti di PIL. Io in questo motivo per dire stappare lo champagne non lo trovo, perché ho solo paura che alla fine alzeranno ulteriormente le tasse, però magari mi sbaglio io, per così dire. Allora mi sono detto, meglio chiedere a un ospite che ne sa molto più di me, ed è quindi in collegamento con noi un bravissimo, straordinario economista italiano che ha anche il pregio di parlare fuori dai denti, con lingua un po' tagliente, e che di mestiere in questi anni fa il chief economist, beato lui, per il fondo di investimenti dell'Oman. Si chiama Fabio Scacciavillani e io sono felice di presentarvelo. Grazie Fabio di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a te Oscar, sempre un piacere. Allora, mi dici Fabio Scacciavillani, tu come hai letto la pagella? Siamo promossi, è finito tutto, il governo ha vinto, come la vedi tu? Ma io ce l'ho sotto gli occhi questa pagella e comincia con alcune avvertenze. La principale è questa, che dice: lo scenario macroeconomico sul quale si fondano le proiezioni di bilancio del programma è ottimistico per il 2014. Quindi già come primo macigno c'è una sconfessione delle proiezioni del governo italiano. Perché il governo ha detto, Padoan, noi lo 0,8% previsto di crescita non lo modifichiamo, il primo trimestre è stato meno 0,1% sul trimestre precedente e effetto di trascinamento sull'anno meno 0,2%, quindi bisognerebbe fare un punto pieno di PIL per raggiungerlo. Tu che dici, fa bene il governo? Ma fa bene, bene o male, dipende rispetto a che cosa e qual è il criterio che si adotta. Noi, se rimaniamo alla lettera della lettera, diciamo così, a ciò che viene scritto nero su bianco da Bruxelles, è una sconfessione delle previsioni. Ora, non sarà lo 0,2% ad essere un punto, come dire, che fa deragliare tutta la manovra di politica economica, ma poi continua questa lettera e comincia a dire: questo scenario, lo scenario di previsione del governo, è plausibile dal 2015 in poi, ferma restando tuttavia l'attuazione piena delle riforme strutturali adottate, che non è scontata. Quindi questo significa: noi siamo molto scettici, in aggiunta ai dubbi sul quadro di previsione, siamo molto scettici che questo governo sia in grado di attuare le riforme che ha promesso. Tra queste riforme, tra l'altro, poi c'è un punto di PIL di privatizzazioni, di cui né la stampa né il governo parla. E quindi è chiaro che tutto questo clima di battimani, clima di ricreazione che si è creato, è assolutamente non giustificato. Dice la Commissione, il programma prevede che il rapporto debito pubblico PIL raggiunga un picco nel 2013 per poi iniziare a scendere grazie anche ai proventi previsti da privatizzazioni pari a un punto percentuale di PIL all'anno. Stiamo parlando di 16-17 miliardi. Allora, io ricordo a chi è in ascolto che i governi italiani, anche gli ultimi, quelli del dopo crisi, dal 2011 in poi, hanno sgarrato le previsioni sulla montare, l'evoluzione del debito pubblico in maniera sesquipedale. Cioè, per il governo Monti, nel 2014 il debito pubblico italiano sarebbe stato al 118%, per il governo Letta all'inizio sarebbe stato al 124%, invece è 10 punti in più, il 134%. Questo per ricordare che va bene che molti di voi pensano che i cattivoni siano in Europa, che non sanno giudicare, però noi continuiamo a dire numeri campati parecchio per aria. È vero, quello che ci manca è la componente della crescita nominale, oltre a quella reale. Adesso aspettiamo che cosa la BCE farà giovedì per tentare di portare la crescita nominale, cioè l'inflazione, un po' più vicina a quel 2% che è il tetto, il target, obiettivo dichiarato massimo della BCE, e quello ci serve, perché in assenza di quello ovviamente il debito pubblico non si stabilizza. Però, detto tutto questo, io penso che Scacciavillani, leggendo questa pagella, deve interrogarci non tanto su Renzi, perché io Renzi lo capisco, Renzi ha vinto le elezioni e quindi flette i muscoli, non ha avuto la manovra aggiuntiva, però certo sui media, sui miei molto più autorevoli di me colleghi che intonano sto peana, forse i giornalisti dovrebbero esistere per dirvi: guardate che c'è scritto quello che Scacciavillani vi ha detto. Io per esempio a un punto di PIL di privatizzazione, vedere per credere, non so se Scacciavillani, i mercati se l'aspettano davvero che noi lo facciamo? Non credo proprio. Ecco, non credo. Quello che io sento tra colleghi, che sento insomma quando si parla con persone che operano sui mercati, questi 17 miliardi di privatizzazioni, a questi 17 miliardi non crede nessuno. Ma se posso dire una cosa che secondo me è interessante e diciamo così, è un discorso che mi preme fare. Dalla narrazione che uno legge sui giornali o vede sui media, immagina che la politica economica sia fatta in questo modo, più o meno puerile. Ci sono due bottoni in una stanza, uno c'è scritto austerità e un altro c'è scritto crescita. Certo. Allora, per qualche motivo strano esistono delle persone così con un atteggiamento antipopolare, masochiste o sadiche che spingono, si intestardiscono a spingere questo bottone austerità, mentre sarebbe così facile premere questo bottone crescita. Tutto si risolve, si ritorna ai mitici anni 80, i problemi si risolvono, eccetera, eccetera. Non è così. E se posso aggiungere, nella lettera della Commissione, la parte sul bilancio non è la parte preponderante. La parte preponderante è sulle riforme strutturali. Infatti 7 su 8 punti sono sulle riforme. Esatto, quindi non è diciamo così, un approccio ragionieristico, che è quello che viene presentato in modo infantile sui media. L'approccio della Commissione, che poi è l'approccio di buonsenso, è quello che dice una cosa molto semplice: il paese così com'è oggi, con queste tasse, con questo sistema giudiziario, con questa scuola che produce somari, non è in grado di crescere. Non perché la politica monetaria non sia troppo lasca, non perché la spesa pubblica non sia abbastanza alta. Tra l'altro, questa spesa pubblica, come tu hai ricordato più volte in questa trasmissione, è cresciuta sempre, esatto, tranne in un anno, nel 2010, esatto, di una manciata di miliardi. Quindi non c'è stata austerità sul lato della spesa, c'è stata austerità, ma io non la chiamo austerità, c'è stata una politica demenziale di aumento di tasse, esatto, che ha assolutamente tagliato le gambe agli investimenti, a qualsiasi volontà di aprire imprese o di espandere l'attività, combinata con l'incertezza su tutta una serie di fronti, dall'IMU, la TASI, eccetera, eccetera. E quindi in queste condizioni il paese non cresce, non perché la Banca Centrale Europea non fa come la Fed, che tra l'altro non è neanche vero, e non è certo perché l'euro è sopravvalutato o sottovalutato rispetto a non si sa bene a cosa. Allora, fermiamoci qua un secondo perché abbiamo 60 secondi sull'informazione stradale, poi torniamo con Chief Economist del Fondo di Investimenti dell'Oman, Fabio Scacciavillani. I nostri ascoltatori vogliono sapere se il Fondo di Investimenti dell'Oman investe anche in titoli italiani o in paesi degli euro deboli, come lo valuta in fondo il criterio, il rischio sovrano in questa fase rispetto anche agli sviluppi politici dell'Italia. Ma la risposta viene dopo i 60 secondi di strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:48, primi 41 secondi, a parlare della versione molto edulcorata che è stata data dai media italiani della pagella di Bruxelles nei confronti del piano delle riforme e delle prospettive di stabilizzazione dei conti pubblici presentate ad aprile dal governo italiano. E molti ascoltatori comunque dicono: sì, vabbè, ci verranno bocciati, però basta con il giudizio di questi che sono col ditino. Basta col giudizio. Io non so cosa dirvi, ragazzi. Noi le regole. Regole comuni per rafforzare la vigilanza sui bilanci di tutti i paesi dell'Unione Europea, con questa scadenza per semestri, in cui nel primo semestre ci sono le indicazioni di massima e il giudizio, e poi nella seconda parte dell'anno, quando arrivano le leggi di stabilità, le finanziarie, le si sottopone prima del voto finale del Parlamento, il giudizio della Commissione, le abbiamo accettate tutti come una procedura di disciplina che serve proprio per dare un gradino in più all'Unione, anche politica, attraverso i controlli della finanza pubblica. Non è che ce l'ha imposta qualcuno di cattivo, questo ve lo ricordo, perché dopodiché altri chiedono se l'ospite di oggi, cioè Fabio Scacciavillani, è berlusconiano. No, vi posso garantire di no, anche perché, scusate, se fosse berlusconiano forse vi siete persi qualche sviluppo, sarebbe a dire che è tutta colpa dell'Europa, è tutta colpa dell'euro. Dice, avete sentito che è un po' diverso. No, non c'entra niente, qui si tratta di vedere che cosa c'è scritto nelle cose che vengono scritte sui numeri che l'Italia fa, ecco, tutto qui. Ma il fondo dell'Oman come si regola con i titoli degli euro deboli in questi ultimi mesi? mesi, Scacciavillani? Guardi, è molto semplice, perché per mandato noi non investiamo in titoli a reddito fisso, quindi noi siamo un fondo di investimento che opera solo su imprese. Noi compriamo imprese molto, quasi sempre non quotate, abbiamo alcune imprese quotate con partecipazioni strategiche, ma noi quello che facciamo, operiamo nell'economia reale. Quanto mi piace questa cosa, posso dire, mi sembra molto avanzata, scusate se... No, vi faccio notare che i fondi sovrani è meglio che stiano lontani dai debiti pubblici dei paesi sovrani, per un'ovvia ragione, no? Cioè, per un'ovvia ragione, però è meglio sottolinearla, per così dire. Sentiamo Sergio che ci chiama da Padova. Sergio, come la pensi? Ecco, mi fermo immediatamente perché sono col mio voce d'affatto. Ecco, non guidare mentre comunque... Ecco, intanto voglio dire una cosa, la penso su una, cioè, a me danno fastidio questi atteggiamenti da professorini in cui si critica sul pianista, quando il pianista, poveraccio, è l'unico che in qualche maniera sta cercando di suonare e vuole fare le in qualche senso. Sì. Ecco, proprio veramente gli atteggiamenti di questa sufficienza che sono, non da parte sua, adesso mi dispiace perché ho sentito una parte. Ma si figuri. E quando anche fosse di me sarebbe legittimo, non è questo il punto. Noi ci stiamo limitando a richiamare la realtà di quello che c'è scritto nella pagella rispetto a come è stata figurata. Cioè, non si tratta di negare che Renzi vuole fare le riforme, non si tratta di negare, si tratta di dire che lì però i conti non tornano. E i conti non tornano, Sergio, questo è il punto, voglio dirti questo. Non è che... È giusto, probabilmente è vero, ma se non, io capisco che ci possa essere anche il tentativo legittimo di dire che se andiamo a guardare com'è la realtà, veramente nessuno ricomincerà a investire e nessuno metterà in moto l'economia. E purtroppo qua o in qualche maniera si è ottimisti. La fiducia è una componente della crescita, dici tu. No, vabbè, questo lo capisco e non spariamo sul pianista. Lo dico poi a chi chiede, ma di che riforme si tratta? I 7 punti delle riforme, ce n'è veramente per tutto. Ce n'è uno, per esempio, sulla riforma del mercato del lavoro, che abbraccia praticamente tutti i capitoli promessi nel Job Act, cioè nella legge delega dopo il decreto Poletti, da questo governo. Ce n'è uno che riguarda l'apertura al mercato di tutti i settori dell'economia italiana che vengono considerati dalla Commissione Europea da anni e anni, perché quel paragrafo viene ripetuto praticamente uguale ogni anno, 2 volte ogni anno, esclusi dalla concorrenza, e si comincia con le poste, che invece questo governo vuole quotare così come sono, senza separare le attività finanziarie, che sono il più delle poste, da invece le attività di consegna, che vivono di trasferimenti impropri non dichiarati in bilancio. E la Commissione Europea dice: è sbagliato, ragazzi, ed è sbagliato perché nel trasporto siete ancora indietro, l'autorità del trasporto non è aperta, nelle professioni, nel trasporto pubblico, eccetera eccetera. Questo è un altro capitolo, ce n'è per ogni, a dire la verità. Scacciavillani, in tutto questo possiamo tornare su un altro punto che continua a inquietare molti nostri ascoltatori, con il Fiscal Compact, che è stato raccontato in campagna elettorale delle europee come i 50 miliardi aggiuntivi di manovra obbligati ogni anno. In realtà, che cosa chiama davvero a fare l'Italia il Fiscal Compact? Ma dunque, i 40-50 miliardi che alcuni squinternati hanno diffuso via web, via televisione, via altri media, è una bufala, diciamolo chiaro, una volta per tutte. Che cosa comporta il Fiscal Compact? Comporta essenzialmente, adesso io non voglio fare calcoli per radio o fare percentuali, cioè, in soldoni comporta un abbattimento della spesa di circa un punto di PIL nel 2016. Buona parte di questo abbattimento potrebbe essere fatto già negli anni precedenti, in modo da evitare uno scalone, e poi si tratta di ridurre il deficit di un 5, massimo 6 miliardi di euro l'anno. Ora, su una spesa pubblica di 800 miliardi, dicono 800 miliardi, 5 miliardi sono trascurabili, sono un'entità che chiunque amministri un'azienda, ma chiunque amministri un bilancio familiare, sa che ridurre di qualche spicciolo le spese non è un sacrificio inenarrabile. E quindi il Fiscal Compact, essenzialmente spiegato in soldoni, dice questo: fate in modo che il debito in rapporto al PIL gradualmente venga ad essere, venga a diminuire anno dopo anno, perché quello che il fiscal compact, quello a cui punta il fiscal compact è la sostenibilità del debito. Quindi non l'abbattimento brutale in pochi anni. E tra l'altro, se vogliamo dare qualche numero, partendo da un rapporto debito PIL del 134%, con un'inflazione all'1%, una crescita dell'1,5% crescita reale, con il tasso di interesse al 3% e un surplus primario del 4,5%, in 20 anni si abbatte dal 134 al 54% del PIL. E quindi oltre la metà del 60% del PIL. Come vedete non sono numeri pazzeschi, certo per un paese che è piantato a crescita zero e con la componente nominale, cioè l'inflazione lontanissima anche dall'1%, diventa complicato, però i 50 miliardi non sono mai esistiti di manovra l'anno, mi hanno raccontato, l'ha definito una bufala Fabio Scacciavillani, mi sembra una perifrasi gentile per così dire, ecco, però in campagna elettorale ne vola di qualunque. Tra l'altro molti di voi ci chiedono alcuni messaggi, ma come, ci sono le spending review e voi dite che la spesa corrente continua a crescere? Sì, continua a crescere, anche nel DEF presentato, corretto dal governo Renzi, continua a crescere nei prossimi anni fino al 2017, perché i tagli di spesa intervengono su gli aumenti del tendenziale, ma sono sempre inferiori rispetto poi al fatto che la crescita reale della spesa corrente è maggiore dei contenimenti fatti sul tendenziale. Questo il professor Baldassarri lo spiega, per chi volesse approfondire andate sul suo sito, da 20 anni che bisognerebbe modificare la modalità dei conti pubblici italiani e non intervenire su il tendenziale della spesa pubblica ma sul reale, perché questo è il modo in cui da 20 anni vi raccontano che tagliano, però la spesa corrente continua a salire e alla fine bisogna solo inseguirla mettendovela in tasca la mano con le tasse. Questo è stato il motivo per cui ci hanno inchiodato anche alla crescita zero. Allora io devo a questo punto chiedere scusa a Marco la provincia di Torino e a Gianfranco la provincia di Trapani, perché con Fabio Scacciavillani, che vorrei più spesso ospite e lo faccio promettere, farlo tornare qua anche a parlare di mercati, della Gran Bretagna che esce dall'euro, perché ce ne dovremo occupare presto di questa ipotesi, ma è così un bene o un male? Ma vedremo, ma intanto io lo devo salutare, ringraziarvi, dire continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.